Il tema di Voci 2018 è quello della istituzione delle cosiddette leggi razziali in Italia nel 1938, di cui ricorre l'80° anniversario. L'attenzione però sarà posta principalmente sul dopo, sul periodo successivo all'abrogazione di tali leggi, negli anni dopo la fine della guerra. Pur non ignorando il razzismo contro gli africani, che fu dominante nella prima fase del regime fascista italiano, il progetto si concentra sull'antisemitismo di Stato per considerare gli antefatti e il retroterra, la giudeofobia cristiana e i pregiudizi preesistenti e la decisione del fascismo di farne uno snodo centrale del proprio disegno totalitario. Di qui la costruzione sapiente del pregiudizio, utilizzando stereotipi già presenti e portandoli a sistema in una compiuta teoria esplicitata in diversi atti, dalla pubblicazione del Manifesto della Razza alla rivista La Difesa della Razza, fino al complesso apparato legislativo discriminatorio e persecutorio. Non saranno sottovalutati gli effetti dell'antisemitismo fascista nella congiuntura della guerra e quindi nella collaborazione allo sterminio da parte della Repubblica neofascista durante i 20 mesi di occupazione tedesca. Considerate tali articolate premesse, l'attenzione del lavoro è principalmente orientata sul dopo. Cosa accadde con la fine del fascismo? Se è vero che i partiti antifascisti, mentre l'Italia del Nord era ancora occupata, indussero la corona ad abrogare le leggi, non pare che sol per questo il pieno riconoscimento dell'identità ebraica abbia trovato normale accoglimento nel contesto della cittadinanza italiana. Come si afferma, non senza ragioni, l'antisemitismo italiano tra la popolazione non è stato meno estremo e meno diffuso che in altri paesi europei. Ad esempio, è nota una certa resistenza dei quadri dell'esercito italiano a concorrere allo sterminio degli ebrei nella Slovenia occupata. Eppure, pregiudizi e fastidi giudeofobi non si sono dissolti con l'abrogazione della legislazione antisemita. La reintegrazione nelle professioni o nel possesso di beni degli ebrei colpiti dalle leggi del 38 non è stata né automatica, né immediata, né facile, così come paiono perdurare a lungo diffidenze che rimandano a vecchi pregiudizi e a consolidati stereotipi quali, anziché dissolversi progressivamente, riemergono in relazione tanto alle vicende politiche e militari dello Stato di Israele, quanto alle impaurite chiusure nazionalistiche. Hanno lasciato tracce profonde la legislazione antisemita fascista e la propaganda che l'aveva preceduta e accompagnata? Oppure, nella società italiana, allignavano antichi pregiudizi che il trauma della guerra e il lavacro della resistenza non avevano potuto che scalfire superficialmente o soltanto in alcuni settori sociali senza superare del tutto? Tale è la domanda che Voci 2018 intende porsi e porre.